capire ancora dove sto andando. Cerco di capire bene dove, come e quando. Dico quello che ti prende quando speri, proprio quando vuoi che tutto sia veri. Tu mi guardavi, tu mi cercavi, adesso sono qui, dimmi cosa speravi. Dico quello che ti prende adesso, oh. Dimmi solo se ti credi a studio, oh. Per me ti abbia qualche dubbio, oh. Adoro la tua roba, come no. È una strategia, sì, ma come fidarsi? Io resto a casa mia, tu resti tra gli scarsi. Non so perché meglio è se non ti vedrò più. Fai da te, certo, non puoi rubare soldi, ma poi non presentarti mai più. Dimmi cosa pensa adesso questo, niente che possa avere certo un senso. Non illudevo di sicuro, ma adesso i denti provo a stringere, sogno più spesso. Non guardare, non cercarmi di azzettire, è quello che mi passa in mente adesso. Devo far uscire quello che ho dentro. Devo riuscirci, altrimenti mi spengo. Dici di restarmi nel mio posto, vedi di sparire, tu sei giusto il mio opposto. Non provo a farmi male, ma di qui non mi sposto. Dimmi sei felice, non mi hai mai risposto. Io ti ci aggrappi, ma il tuo successo è effimero. Sai chi sei davvero, allora cerca di esprimerlo. Faccio più sogni di chiunque altro, è questo che mi libera e mi spinge più in alto. Hey! Anche se non so bene.